Beh, a chi usci non si comprende. Usci ma mette a metà. Metta la panna, normale mette il cioccolato. No, ma cla, è di mele, ci ho messo anche l'uva passa. Di mele? Che si apparte niente cos'è? Tanto già bruciata, dai. Si apparte niente alla gana di Luca. Che si so la gioga, si tragito che la fende alla gioga, cla. Si tradotta con la gioga ci vedi. Allora ho già detto. E sta sbucciando le lumache. Da poi così gundi ha detto che la prende la duccia. Di che? Oia, mamma mia, come sto? Diciami cosa è preparando i miei moglieri invece. Che tengo roba di verraglia, non se la preparano di giodi, no? Lu, Anna sta preparando chiodi al forno. Avanti, chi è? Ho capito che ci sei, ma se non parli, vieni avanti, buonasera. Va bene, non vuoi modulare? E perché non vuoi modulare? Con chi ce l'hai? Siamo qua comunque, non c'è problema. Se vuoi entrare, entra. Tranquillo, sei il benvenuto. Tu sembra il segnale di Marcolino. Tu sei Marco. Marcolino, noto Rattapignara. Oh, Catarella. Oia. Oh, che cosa bella. Già curore Piglienigla. Ma cos'è il double fast? Oh, una brittella, ci butto una catarella, una tapparella, una fregata d'alluminio, c'è la tappizzi, no? E la beba contro la ci butto un po' di bolloni, rondelli a fianco. Bella. Luca! Su WhatsApp! Ma io fammi una registrazione, fammi sentire come arrivo la tecla. Me la mandi su WhatsApp. Cosa, catarella? Fammi una registrazione, me la mandi su WhatsApp, dai, pronto, sì. Aspetta, te lo dico io. Parla. Attenzione Claudio, senti qua la vita mia, gamma gamma, senti questa modulazione. E come mi ascolti? Cambio, 1500 watt in antenna. Buongiorno. Cambio. Aspetta, chi è che ha detto buongiorno? Avanti. Mi hanno messo la portante. C'era uno che ti ha parlato sopra, ha detto buongiorno, chi è? Avanti? Tu, non vuole entrare. Avanti chi vuole entrare sul canale 7 PMR. Tu, ti ha parlato sopra, comunque già ti ho registrato, ascoltati. Arrivi fortissimo qua, non c'è problema lui. Ma la portante mi hanno messo qua. No, no, ti hanno parlato sopra, ha detto uno buongiorno. E l'altro ti ha detto, famoni! Ma l'ha fatto involontariamente, dai. Però se c'è qualcuno che vuole entrare qua nel canale 7, avanti. Siamo qui per parlare tutti. Avanti, c'è posto. Ma c'è qualcuno che sta mettendo la portante, club? L'hai visto nella registrazione? E ha schiacciato appena appena. Io non ho parole molte volte, la gente, non lo so. Ehi, ma vabbè. Il disturbatore c'è sempre, ma sorvoliamo, dai. Chi vuole entrare, ripeto, siamo qua per chiacchierare tutti. Non c'è problema. Vabbè, dai, non comment. Comunque le lumache sono cotte per domani, adesso mi devo preparare i lumacconi. Quelli si fa marina. Che sono troppo umani, a me non mi piacciono i gusti grossi. No, oh, cazzo c'è che me ne hai buttato un pigiattino e rimani, ammazzate nell'aria. C'è nei magni. Beh, ci devo andare di nuovo, ti attrae la gara un po' tranquillo. Ci devo andare appena si possono fare. Oh, io le ho fatte qua sotto casa, nel giardino di casa, una mangiata, ma lumacconi manco uno, tutto gioca. Non le vedo, lui, non ci vedo un cazzo, no. Già mi piace andare a farle, almeno cammino, però non ci vedo, non li vedo, le gazzegheggio cosa ando a fare. Claro, io ci esco dalla casa alle 5, tra una cosa e l'altra arrivo alle 5 e 10, 5 e un quarto, mi metto la pila in testa e inizio a camminare. Mentre cammini poi inizi a pigiarti. Ho capito, Lu, ma sarei venuto con te, cosa pensi che temo alzarmi alle 3 alle 4 del mattino? Non me ne futti nulla. È che tu non mi porti, a chi ricasse geju. Capito. Tante volte mi portavano. Cazzo, sei cazzo di puta di. Non li vedo, Lu, capito? No, vabbè, se tu cammini nella stradina e le lumache sono a bordo, non le schiacci, tranquillo. Basta ricacciare la birra, quanto la mia, te la poni in capo. Ma la birra Baccuro non hai, invece di capo. Eia! Luca! Dimmi! Andiamo a fargli la bretella. No, anzi, non è stato, andiamo di giù. Ha detto che c'è Sciarezzinco, che dici, c'è Givi, andiamo nella bretella a farlo. Sì, vabbè, se che dici, ma come dici, quei 10, quei 20, dai, il tempo di arrivare là, poi ci fermiamo in vari posti, poi quello più carico iniziamo a raccogliere. A cane che veniva un bel. A cane che dietro il pollaio era pieno. Di polli scaduti. E allora? No, di lumache, no. Solo che Luca li raccoglie già sgusciati. Se vuoi lumache deve andare in campagna, allora, in campagna mia, è pieno di lumache. Lumache, lumaccone ci sono, il problema è che deve entrare dentro l'acqua e poi salire di nuovo sopra, il discorso è quello. Però deve farlo di giorno, non di notte, se no si va l'aiosso. Perché il ponte è caduto l'hanno sfasciato, l'hanno fatto cadere in terra, se no si poteva anche passare. Capito? Poteva entrare e uscire. Ma lo sai, ma si può entrare anche da quella casa abbandonata, cosa entra, Antonè? Da lì costeggi tutte quelle le canne che ci sono, chi è pieno di coccoi. La gente non può andare, però, ma chi è pieno di coccoi? Già non so che è pieno. Te sto dicendo, quando scendevo in campagna io ne trovavo quante ne volevo vicino alla dove passava l'acqua del fiume. Quindi è pieno, se vuole andare vicino, entra da lì dentro e arriva fino alla campagna mia, dopodiché torna indietro. Se te lo sto dicendo, grosso, lì è pieno di lumacconi. E così in quella zona di Agliato, dove c'è lo stagno, lì, non dalla parte di Cristina, dall'altra parte. E poi anche da lì poi si entra dalla parte del giardino, c'è un giardino, c'è lì. Ci sono limoni, mele, di tutto c'è. Poi vabbè, a parte campagna mia ci sono tutte le mele, adesso dovrebbero esserci i melograni, saranno tutti pronti da portarti via, belli grossi. Ci vuole una canna, una cosa, arrivarci e ti carichi tutto. Tanto io di lì non ci vado, a me non me ne frega niente. Perché quello che c'è può anche marcire. Non me la fotte nulla. Se uno va con i pantaloni quelli a... per l'acqua, isolati, si fa una bella passeggiata e fino a campagna mia. Si piglia una falcetta, cosa del genere, se per caso ci sono rovi, e si fa anche la frutta, non so del resto. Antonè, ma bambini ci sono a casa tua? No, perché bambini senti? No. Perché poco fa ti ha schiacciato la portante a fondo scala. Ho detto avanti che vuole entrare e non è entrato nessuno. Pensavo c'era qualche bambino a casa tua, tuo nipote, magari ha schiacciato il microfono. Ah, poco fa c'era da lì, io sono sceso giù a comprare sigaretta a Giampiero. Probabile che abbia schiacciato lui, niente di strano. Già lo so usare il baracchino da lì. Quindi probabile che abbia schiacciato e anche parlato magari. Ma prima ha schiacciato quando stava parlando Luca. E poi ha detto buonasera, però non è entrato più. E allora era lui, dai, non è successo niente. No, pensavamo c'era qualcuno che volesse entrare, che voleva disturbare, boh. No, Daniele già è tranquillo. Anzi, aspetta, quando fa via con la gente, prende, entra e fa qualche passaggio, fa capito. Favore! Già gli piace il baracchino a Daniele. Ehi, vabbè, dai, non è successo niente. Ma buone veramente sono uscite qua, uno spettacolo. Tanto io sei lì su regalenti tu. Sì. Raga, Luca. Oh, Cla. Dimmi. Intanto c'è lì su regalenti. Li può pigliare un quintale, ma non te ne dati. Ma regalo e poveri piazzi. Non è vero, lo devo difendere. A me me li ha sempre date quando li ha prese. Una volta me li ha date, erano anche un bel di lumacchini, a sé non erano di moli. Buoni, capito? No, già di buon cuore Luca, quando c'è qualcosa a me me l'ha sempre data, a te non te ne dai, te che non ne ribaghi. E allora, io vuole antenne, vuole chi a Gonzali, vuole l'altro, io la conosco, non conosco a Luca. No, Antonè, a te vuole la roba che do a gratis, non te ne dai a te, scusa. A Marco Vizzi. Anzi, mi faccio il culo per andare a prendere lumache, magari mi trova il padrone, mi spara pure e le vuole anche regalare. Pippe, cazzo, tu sei delfino curioso. Tu davvero ne ha tanto così quello desidero, vedi gli altri dati. Ah, così è. Va bene. Va bene. Allora io buono vendo. Ma va, canivo io vendo e buono, non regalo nulla. Lucaria in te ce la ricattene e demmi. Non ti rispondi, no, non ti rispondi, anche lo sai che è la verità. No, io non ne ho mai pagato la verità. Una volta mi ha detto, sono andata a lumache, le vuoi un pochettino, lumacchine, e me le ha portate, capito? E basta, però la verità, quando lo chiamo Luca, ci va in quattro, non ce n'è problema, quindi lo sai come sono io, perciò una mano lava l'altra e tutte e due lavano la faccia. Se vuoi che l'amicizia si mantenga, un piatto vada e l'altro venga, cambio. Sono sceso da Gabriele poco fa a pigliare due pacche di sigarette, mi ha detto... Due pacche di sigarette? Scusa, mi ha dato un bicchiere di birra, un litro e mezzo. Hai già fatto, aspetta che sennò te lo riempi di piscio. Mi ha detto bene, adesso dopo porto il cane, prendo la macchina e vado anch'io a prendere le mie sigarette, perché domani mattina è tutto chiuso. Così sono a posto. Ti conviene pigliare le sigarette? Mi sembra che deve alle 7, 7 e mezza, 8, una cosa del genere. Quindi vai adesso, di alto vi aperto immediatamente. Già c'è Federica e Gabriele e altri due o tre. C'è anche, come si chiama, l'assessore di Usilo, quello con gli occhiali. Ah, sa che ce l'ho e dov'è? La zia Maria me le compro le sigarette, così la ragazza da Edoardo. Magari non hanno manco i sigaretti miei. Io non sono più andato a Tonè, perché tutte le mattine io vado al bar a prendermi il caffè. E prendo il caffè, do un'occhiata al giornale e le sigarette. Cazzo, ogni mattina e non ne ho camere. E non ne ho camere. Deve portarle e non ne ho camere. Mi giocano più due balle, mi gioco più andato. E vado al tris, capito? Mi prendo le sigarette tutti i santi giorni e il caffè, tutto qua. Adesso non sto andando manco al tris per non fare molta strada, vado da zia Maria, capito, da Giampaolo, vado da Giampaolo lì e mi prendo le sigarette e il caffè. Domani mattina, che c'è un appuntamento con Luca alle 8:30, siccome è tutto chiuso, me le prendo da Antonello Fara, capito, lì al Canopoleno. Passando un attimino me le prendo e poi scendo da Luca. Ah, fai bene, non c'è problema. Mi sono andato peccato a pigliare quelle per Giampiero, ma mi sembra che le camere ce le ha, se non mi ricordo male, perché ho pigliato di Giampiero Special. L'unica cosa che mancava era le Marlboro, le messe, ho pigliato un pacco di Marlboro rosse a Giampiero. Mi ha fatto dice, questo è per te, mi ha detto. Aspetta, ha detto, te lo riempio di piscio, gli ho detto. Sì, vabbè, sì, ce l'ho, me l'ha portata anche mia figlia, uno di quei tazzoni grandi, cos'è, boh. Ma c'era una 0,30, 0,40, una cosa del genere. La 0,50, forse mezzo litro addirittura, non lo so. E beh, Lu, ma la foto mandata me l'hai già cotta, la Fainé. La Fainé? Sì, la Fainé, la Fainé, la canella. Vai, tu, bobo, la Dulce ti sono uscita la Fainé. Mica chi sarà la Dulce, credo, penso. Si parla una degli di Fainé, pari. Oh, bu andiamo e andiamo. Sono di nuovo qua, non acredito quello che stiamo facendo. Sito da lontano, in lontananza, Antonello. Antonello, mi ascolti? Ciao a te, già ti sento io. Bene, va bene, meglio così. Tu ti sei abbassato nuovamente, ma ti è arrivato il video? A me no. La 510 sempre sto usando adesso. Ah, c'è ancora caro pieni il cacco da V, vabbè, forse perché ce ne sono due in contemporanea, aspetta. Infatti, boh, ci tende che ho video e non eri venuto, no, chi? Ah, che Luca è buono, lo devi buonire la cosa, otti, no, no, i rubracini, la devi buonire la DSL. Oh, tu, vai zitto che stiamo caricando, boh. Allora già mi senti, sì. Andiamo bene, babbo. La verticale è questa, la 510. Ma Luca, se non ti fidare, magari c'ha stazionarie, Quel lavoro che hai fatto, qualche misura ancora da regolare, da fare, attaccati l'altra. Lo so, Ocla, però c'ho lo spezzone, il cavo corto e mi tocca già, capito? Perché il cavo che c'è attaccato al 706 non è che è tanto lungo, capito? E devo già incollato al coso, perché se non ci arrivo col cavo. E allora questo qua, se no mi tocca andare a Villa Barilotto, a Bonillo Ghivio. Castellinoghi, te lo potevi prendere, c'era c'erano 20 metri di RG58 buono, quello 1000. L'avevo comprato per fare il dipolo degli 80, invece ce l'avevo già pronto. Bastava prendertelo. E se no lo devo staccare dal rosmetro, farli l'allungo, capito? E spegnere la radio però, il 706, in modo che lo spezzone lo uso dal rosmetro alla radio, lo uso per fare l'allungo qua. Aspetta qua, se riesco a allungarlo, quello dell'altra antenna, ma mi pare che arrivi tu. Oh, come hai fatto a caricare il Voxion? L'hai saldato? Ti ho mandato la foto, ho saldato due fili più o meno e poi uno spinotto maschio e vado allo spinotto femmina del Baofeng. Questo saldato, e come fai poi a togliere lo stagno? Poi non entra nel caricatore. Sì, i caricatori, capito, una volta che scaldi lo stagno si fa fino fino, capito? E poi i caricatori sono una specie di molla, non c'è pericolo per quello, capito? Ah, caricalo, fallo caricare bene, che è un bel di tempo spento quel portatile, capito? È un peccato. No, adesso è in carica, adesso sto usando quello che ti ho mandato in foto. Così si riprende bene. Che Massimiliano mi aveva detto di fare così, ma non l'ho mai fatto io. Ho detto, poi faccio tutto. Va bene, va bene. Cosa hai cucinato, Tino? Asinello. Andiamo a vedere. Allora, adesso sono con quella che c'è sul tetto. Fondo scala pieno. Anche a me. Avevo giusto due chili di cozze, le stavo pulendo e lo sono apposta città stanotte, domani mattina in partenza presto, quindi mi sono portato avanti. Presto, a caccia vai domani? No, devo accompagnare Gabriele a calciare a una partita che ha e quindi lo onoro. E beh, ti porti le cozze. Che male, non sono male, no. Ma qualche pallino imbottito anche con qualche pezzo di asinello. Allora sì. E poi un po' di, lo sai, un po' di fettine di cose non stanno male, no? Marco, mamma mia, quando lavoravo, cazzo ragazzi, per carità. Come arrivavo a Nurvi alle 6 di mattina, andavamo al forno, cioè il forno è attaccato la salumeria. Prendevamo quelle focacce grandi col mio collega, ma mani, calde con la mortadella. Oh, Tino mio, Sant'Antonio. Guarda, oggi ha fatto lavoro alle punti, ci siamo fermati 10 minuti, giusto per mangiarci due panini e due birrette, e poi tira che aiuta. Non era caldo, però, insomma, la giornata era umida. Sì, mangiava bene, non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno, guarda, panino la mattina lo sto sognando, però se parto di nuovo in quarta è un casino. Sì, si la bello, venne tempo da parlare di gara, quando sono morto già demarisco. No, ma io ti non l'ho fatto per quello, né per l'estetica né per niente, non me ne fottia nuda. Io l'ho fatto perché ho un grosso problema alla schiena, capito? Sono un bel messo male. E l'ortopedico mi ha detto che la prima cosa che dovevo fare dovevo dimagrire, quindi quei 10-12 kg li ho dimagriti. Però mi viene di l'ansia, cazzo, l'ansia mi viene, non sto bevendo, non mangio poco pane, nulla, praticamente niente. È una vittaccia, dove ti dico. Lo so, però sto molto meglio così, perché se ingrasso di nuovo mi viene del mal di schiena, non posso fare più nulla. Vabbè. Ebbene, Lugariello, girate la chitabizza, o quella c'è vera, adulta. Ma è inutile che siamo in PMR, a Luca, non v'entra, boh. Allora andiamo al 23, cosa vuoi ti faccia? Al 23 lo sai, no? Io ce l'ho acceso, basta lasciamo questo in monitor e parliamo anche sul 23, se no siamo sempre in oga, tutta la di noga, sai. Eccomi, anche io sono qua, ce l'ho spento.